Allora, buonasera, bentrovati, bentrovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 e in DAB anche a Terni, oltre che dal nostro sito ondarossa.info in tutto il mondo. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, quindi ciclo tecnologico per entropia massima, estrattivismo dei dati, come sa chi ci ascolta abitualmente, e lo faremo in un modo un po' diverso dal solito. Non ci concentreremo sulle meraviglie tecnologiche né sulle paure apocalittiche, parleremo invece di lavoro. La puntata di oggi va in onda in differita il 9 giugno, subito dopo il referendum, ma è stata registrata qualche giorno prima. Non conosciamo ancora l'esito delle urne, ma forse una cosa possiamo dirla: i temi proposti al voto sono senz'altro rilevanti, ma probabilmente non c'entrano in modo adeguato, a nostro avviso, il cuore delle grandi questioni che oggi agitano il mondo del lavoro in relazione alla cosiddetta intelligenza artificiale. Il dramma del nostro tempo è che il lavoro non sparisce, ma si trasforma, e molto spesso si trasforma in lavoro sempre più frammentato, più precario, più isolato, meno qualificato. Ed è un lavoro che non vediamo, è un lavoro che alimenta gli algoritmi, che modera i contenuti sui social, che addestra l'intelligenza artificiale, che consegna cibo e pacchi e che spesso si cela dietro l'illusione dell'automazione. È il lavoro che c'è dietro ogni algoritmo, ogni chatbot, ogni app che usiamo ogni giorno. Un lavoro spesso nascosto, mal pagato, invisibile, ma fondamentale. Perché, come scopriremo, l'automazione non elimina il lavoro umano, semplicemente lo sposta, lo frantuma, lo nasconde. Il nostro ospite di oggi ha dedicato anni a seguire le tracce di questo lavoro fantasma, viaggiando in tutto il mondo, parlando con i protagonisti silenziosi della nuova economia digitale. La sua voce non è nuova a questi microfoni. È un piacere averlo ancora con noi oggi. Diamo il benvenuto ad Antonio Casilli. Grazie, buongiorno. Antonio Casilli è sociologo e professore all'Institut Polytechnique de Paris, è considerato uno dei massimi esperti internazionali di lavoro digitale, automazione e piattaforme, ha fondato il laboratorio DeepLab, con cui ha condotto ricerche in Europa, Africa e America Latina, sulle forme emergenti di sfruttamento nell'economia dei dati. È autore di libri importanti come On attendant les robots, uscito in Italia come Schiavi del click, e oggi è con noi per raccontarci il suo ultimo lavoro, Waiting for Robots, The Hidden Hands of Automation, appena pubblicato in inglese dalla University of Chicago Press. Un libro che smonta pezzo per pezzo il mito dell'intelligenza artificiale come tecnologia autonoma e ci mostra invece le mani umane che ne rendono possibile il funzionamento. Allora Antonio, cominciamo a parlare della diciamo geografia della fatica digitale, no? Quindi questa catena globale di lavoro digitale che emerge dal tuo libro. Ci sono molte connessioni tra chi lavora per pochi centesimi in piattaforme come Amazon Mechanical Turk e gli utenti, quindi anche noi, inconsapevoli, che producono dati. Come si intrecciano questi due livelli di sfruttamento? Allora, si intrecciano in realtà in una maniera molto subdola e quotidiana per noi, e penso che l'esempio che tutti hanno in mente, forse per qualcuno diciamo in maniera diretta, qualcuno perché ne ha sentito parlare anche troppo negli ultimi due anni, è ChatGPT. ChatGPT è un esempio di un'intelligenza artificiale detta di nuova generazione, quelle che vengono chiamate intelligenze artificiali generative o, in una maniera leggermente più tecnica, grandi modelli di linguaggio, modelli fondamentali, quindi insomma delle nuove intelligenze artificiali che sembrano avere delle performance incredibili e che sembrano essere effettivamente a un passo dal realizzare il sogno della automazione completa, o alcuni direbbero addirittura dell'intelligenza artificiale generale. Ora il problema è che ChatGPT, che è stato lanciato, ricordiamocene, nel novembre 2022, anche se sembra molto, molto più tempo, è una soluzione tecnica, in realtà è un chatbot, poco più che un software come gli altri, che però ha bisogno di un numero impressionante di lavoratori che lo hanno prima preaddestrato, e del resto il nome stesso GPT, la P di, P di GPT, significa pre-trained, che in inglese significa preaddestrato. Quindi si suppone, nell'acronimo stesso, che qualcuno abbia insegnato a questo modello di apprendimento automatico, di intelligenza artificiale, a produrre testo o anche tutte le altre cose che ChatGPT fa, perché poi adesso nello stesso prodotto software produce immagini, produce video. Immagino che tutti abbiano più o meno visto passare su internet delle immagini di figure storiche trasformate in cartoni animati di Miyazaki o cose di questo genere. Insomma, queste sono tutte delle cose che sembrano divertenti e sembrano spontanee, automatiche, ma che in realtà hanno bisogno di lavoro di preaddestramento. Allora, in che consiste questo lavoro di preaddestramento? Consiste nel lavoro che non è quello di ingegneri, data scientist, analisti di dati, quindi, insomma, queste figure di sublimi tecnologici spesso ben pagati, ben riconosciuti, assunti nei luoghi centrali dell'automazione, quindi assunti nella Silicon Valley o nei grandi tecnopoli che sono in tutto il mondo, soprattutto nell'emisfero nord, quindi in Europa, in Cina addirittura, evidentemente. Quindi non sono queste persone che hanno preaddestrato ChatGPT. In realtà quelli che l'hanno fatto sono degli operai dei dati, sono dei data worker, quindi dei veri e propri sottoproletari digitali. Spesso reclutati, esito a dire assunti perché spesso non sono nemmeno assunti, spesso hanno dei contratti completamente precari o non hanno contratto, hanno semplicemente un lavoro a cottimo, informale, e quindi queste persone sono assunte per realizzare dei piccoli task, delle piccole mansioni che consistono per esempio nel trascrivere un pezzo di testo, tradurre qualche piccolo estratto, ascoltare, riprodurre un certo suono e via di questo passo. Perché è importante? Perché sostanzialmente bisogna insegnare alla macchina a poi riprodurre questa maniera di comprendere questi processi cognitivi umani. Questa è l'intelligenza artificiale. Adesso uno potrebbe dirsi, ok, va bene, questo però è stato preaddestrato, il lavoro è fatto e abbiamo quindi raggiunto l'automatizzazione completa alla quale aspiravamo. Purtroppo c'è una cattiva notizia, la cattiva notizia viene da una parte dalle mie inchieste in giro per il mondo, ma anche da quelle di tutta una comunità di ricercatori che come me fanno lo stesso lavoro, perché non sono certo l'unico e non siamo certo gli unici noi a DeepLab nel mio centro di ricerca a farlo. Sostanzialmente sempre più persone nel mondo sono assunte, reclutate per realizzare questo tipo di lavoro. E la situazione non è cambiata dopo il lancio di ChatGPT, anzi, se vogliamo, la situazione è peggiorata. ChatGPT è stato lanciato nel novembre 2022, qualche mese appena dopo, la rivista Time, la rivista americana Time, aveva pubblicato una prima inchiesta nella quale svelava che c'erano centinaia di persone in Kenya che continuavano a fare un lavoro che non era di preaddestramento, ma era di moderazione, ovvero sia di verifica che ChatGPT dicesse delle cose che non erano illegali, che non erano allucinazioni o errori evidenti. Quindi questo è un lavoro di verifica, a volte diciamo di moderazione, di filtraggio dei risultati, che attesta del fatto che sostanzialmente l'allenamento non finisce mai. Diciamo che se volessimo usare una metafora dell'addestramento, qualunque atleta o qualunque persona che fa un minimo di sport sa che una volta che ti sei addestrato poi devi continuare ad addestrarti, se no perdi la forma fisica. E la stessa cosa succede con questi modelli di intelligenza artificiale. Una volta che li abbiamo addestrati per la prima volta, poi bisogna riaddestrarli. Anche se supponessimo che funzionano benissimo sempre e che il loro livello di performance è sempre altissimo, spesso per motivi commerciali queste aziende come OpenAI, come Anthropic, sto citando Google, Meta, eccetera, hanno bisogno di riaddestrarli. Il caso classico è se dobbiamo insegnare a un'intelligenza artificiale a parlare un'altra lingua. E di lingue nel mondo, anche se ce n'è un numero finito, ce n'è veramente tante. e spesso lingue parlate da poche persone, quindi bisogna veramente essere capaci di, come dire, saper scegliere un buon programma di allenamento. Allora, questo programma di allenamento sostanzialmente non possiamo affidarlo per motivi di costo a delle persone che sono ben pagate, e quindi queste aziende, in maniera estremamente sfruttatrice e in maniera spesso in violazione delle regole internazionali del diritto del lavoro, le affidano a delle persone che definisco come appunto degli operai dei dati, che sono pagati molto poco. Allora, per darti qualche esempio, l'esempio classico è noi in Madagascar abbiamo intervistato delle persone che arrivavano alla fine del mese ad avere, diciamo, l'equivalente di 90, 100, 110 euro. Che ancora una volta uno si dice sempre con una prospettiva molto europea, ma in quei paesi lì può bastare. No, purtroppo non può bastare nemmeno in quei paesi lì, nemmeno se andiamo in altri paesi come in Kenya, dove si riesce a guadagnare giusto fino a 400 euro al mese. Anche qui, in una città come Nairobi, che è molto cara proporzionalmente, non si riesce a vivere. In Venezuela la situazione è stata ancora più grave. Durante il Covid, quando noi abbiamo fatto la nostra inchiesta tra il 2021 e il 2022, c'era una situazione tale che non soltanto il livello delle remunerazioni era bassissimo, tipo si arrivava a qualche dollaro al mese, e questo era il salario medio, non il salario minimo, salario medio, ma soprattutto i salari erano pagati nella moneta locale, che è il bolivar. Il bolivar aveva una tendenza a svalutarsi da un giorno all'altro. Quindi questo, il fatto di lavorare per addestrare delle intelligenze artificiali, siccome lo si faceva, lo si fa ancora attraverso delle grandi piattaforme internazionali, tu hai citato Amazon Mechanical Turk, ma ce ne sono tantissime altre che sono forse sconosciute ai più, alcune si chiamano Outlier, Remotask, Scale, Appen, potrei citare una sfilza interminabile perché sono, il numero è aumentato tantissimo dopo il Covid, e queste piattaforme permettono a tante persone nel sud del mondo di avere accesso a remunerazioni che spesso sono in dollari, e quindi può essere interessante per qualcuno che vive in un paese in cui la moneta si svaluta da un giorno all'altro avere una remunerazione di questo tipo. Ma ancora una volta sono dei salari da fame, sono dei salari che non permettono di far vivere una famiglia, non permettono di diciamo proiettarsi nel futuro, avere una carriera, immaginare che questa diventi una professione, e soprattutto sono dei salari che sono estremamente al ribasso rispetto a quello che queste stesse aziende pagano quando qualche volta, in realtà abbastanza spesso, devono reclutare anche delle persone in Europa, in America, eccetera, perché lo scarto che noi vediamo è enorme in Europa. Qualcuno che faccia questo tipo di lavoro di operaio dei dati è pagato, può essere pagato fino a 12-15 euro all'ora, quindi voglio dire, stiamo facendo delle cose che sono perfettamente coerenti, se vogliamo, con i salari minimi a livello europeo, anche se poi è tutto uno spettro. Il salario minimo non è lo stesso in Italia che in Lussemburgo, per dire, in Lussemburgo è molto più alto. Ecco, questo è per dire che abbiamo una massa enorme di persone, che una forza lavoro enorme, che a livello mondiale si concentra soprattutto in paesi del sud e le cui remunerazioni vanno a ribasso, tanto che spesso si arriva a essere pagati, se si è un operaio dei dati, pochissimo, a volte meno di un centesimo, per realizzare un task, per realizzare una di queste mansioni. E la domanda che a questo punto diventa provocatoria, ma che permette anche di vedere come questo sfruttamento sia ancora più diffuso, è: che differenza c'è tra una persona che, non lo so, a Caracas, in Venezuela, è pagata 0,01 centesimo per produrre un certo tipo di dato, e te e me, che siamo pagati zero per produrre lo stesso tipo di dato? Perché questa è la faccenda che ci permette di vedere come il lavoro gratuito non sia una astrazione di qualche sociologo, qualche economista post-operaista che si è inventato che c'è il lavoro sociale, eccetera. No, qui facciamo parte della stessa catena di produzione, e questo lo vediamo quando, in quanto utilizzatori, mettiamo di ancora una volta ChatGPT, perché è l'esempio che ho scelto, siamo ogni volta invitati a fare del lavoro dei dati. L'esempio classico è quando qualcuno chiede qualcosa a ChatGPT, non so, scrivimi un sonetto nello stile di Shakespeare. ChatGPT immediatamente produce, snocciola un sonetto nello stile di Shakespeare, e poi immediatamente subito dopo dice: dimmi che cosa ne hai pensato, metti un pollice su o un pollice giù. Questo è una forma di addestramento, o di addestramento postumo, se vogliamo, di questo stesso modello di intelligenza artificiale, che si chiama, in termini tecnici, reinforcement learning, ovvero sia apprendimento di rafforzamento. Quindi significa che stiamo consolidando un modello che già esiste, che funziona più o meno, ma che ha bisogno di essere riallineato, corretto, bisogna limitare certe distorsioni. Stiamo facendo lo stesso lavoro, soltanto che noi non siamo pagati, anzi, paradossalmente con ChatGPT e questi sistemi, siccome tendono ad essere dei sistemi a pagamento sempre più, addirittura paghiamo un abbonamento per poterli utilizzare e per poter fornire questo lavoro. Quindi c'è, se vogliamo, un lavoro non remunerato dei paesi ricchi, che si realizza a livello dei consumatori, delle centinaia di milioni di persone che utilizzano ogni giorno ChatGPT, ma poi c'è anche un lavoro quasi gratuito, perché tendenzialmente sottopagato talmente tanto che viene quasi ridotto, tende a zero, nei paesi del sud del mondo, e qui non abbiamo più 100 milioni o centinaia di milioni di persone, ma abbiamo effettivamente delle masse ancora più enormi. Quante siano, questo è un altro problema, perché giustamente sappiamo che gli esseri umani sono diversi miliardi al mondo, ma le stime del numero di persone, di operai dei dati, iniziano a diventare delle cose faraminose, delle cose mostruose. I miei colleghi di Oxford nel 2021 avevano fatto una stima basandosi su delle metodologie che avevamo sviluppato noi qualche anno prima, e avevano valutato che a livello mondiale c'erano più di 160 milioni di persone che facevano questo lavoro. Come dire, cifra da maneggiare con molta cautela, io lo dico sempre, ma questa cautela non è condivisa da tutti. Altri economisti della Banca Mondiale, non possiamo accusarli di essere dei pericolosi comunisti, hanno ripreso la stessa metodologia e sviluppato anche, e sostanzialmente sono arrivate delle valutazioni che adesso arrivano fino a 435 milioni di persone. Adesso, non ci possiamo credere, perché 435 milioni di persone sono il 12% della forza lavoro mondiale, ma se il 12% potenzialmente, anche se soltanto qualcuno ha potuto pubblicare una cosa del genere in una pubblicazione ufficiale della Banca Mondiale nel 2023, vuol dire che da qualche parte questo non è una fandonia di complottisti, una congettura. Questa è una ipotesi che è portata avanti da una istituzione internazionale riconosciuta a livello mondiale, un'autorità nel contesto economico. Stiamo comunque parlando di una tendenza forte, e una tendenza che si è consolidata dopo il Covid, e dopo naturalmente il lancio delle intelligenze artificiali, che coincidono storicamente con gli anni del Covid, e quindi sostanzialmente stiamo vedendo una tendenza a un numero crescente di persone che sono messe al lavoro per realizzare lavoro di addestramento, di produzione, di filtraggio, di annotazione dei dati, si chiama così, e questo significa anche che è una cattiva notizia, perché se ci eravamo illusi, alcuni vedendola come una cosa positiva, alcuni come una cosa negativa, che prima o poi avremmo assistito alla fine del lavoro, abbiamo una cattiva notizia: qua sempre più persone lavorano, solo che queste persone sono in luoghi che noi non vediamo, perché sono lontane geograficamente. Se andate, vi posso assicurare, se andate in Madagascar le vedete in strada, o le vedete nei cybercaffè, le vedete a casa loro, le vedete negli uffici che fanno storia su questo lavoro, ma non le vediamo, ma sono sempre di più e sono sempre meno pagate. Quindi questo è un contesto che, anche se non assistiamo alla fine del lavoro, non è per niente rassicurante, è forse altrettanto apocalittico che se fossimo di fronte a un caso di disoccupazione mondiale, globale, di massa. Bene, direi di fare una pausa musicale. Ascoltiamo un pezzo di Witness Playland, Long Rehearsal. Somehow the stars E allora torniamo in voce, siamo qui con Antonio Casilli a parlare del mito dell'automazione, del racconto dominante su intelligenza artificiale e lavoro. E diciamo adesso vorremmo un po' approfondire questo aspetto in particolare. Nel libro tuo, Antonio, affermi che l'intelligenza artificiale non elimina il lavoro umano, ma lo nasconde. Possiamo partire, per esempio, con questo. Cosa significa esattamente il lavoro invisibile nel contesto dell'intelligenza artificiale? Allora, questo significa, prima di tutto, che mi permette anche di raccontare un poco di, diciamo, di retrobottega della produzione di un libro. Comunque è un lavoro che, come dire, mi accompagna da presto, saranno 10 anni che ci lavoro su questa tematica, e posso assicurarti che i miei vari editori in diversi paesi, in Francia, in Italia, negli Stati Uniti, ogni volta hanno bisogno che io gli spieghi se questo lavoro è invisibile, se questo lavoro è nascosto, oppure se, come insisto, perché sono un universitario e noi veniamo, sai, pagati alla produzione, ogni volta che produciamo un neologismo inconcepibile o incomprensibile, è un lavoro invisibilizzato. Invisibilizzato significa che è reso invisibile a forza di, beh, a volte semplicemente, appunto, ripeto, se questo lavoro è realizzato in paesi che sono distanti da noi, gli operai dei dati noi non li vediamo, noi in Italia, noi in Europa, noi nel nord del mondo non li vediamo. Voglio dire, se pensiamo a una comparazione possibile sarebbe con i lavoratori di Uber o i lavoratori di Deliveroo. Li vediamo in strada, possiamo uscire, vediamo delle persone che girano con delle uniformi, con delle box riconoscibili, con dei marchi, ma non vediamo le persone che lavorano per Amazon. E ce ne sono anche in Italia, ce ne sono anche in Europa. Allora, non le vediamo perché uno potrebbe dire la natura stessa di questo lavoro è che sia invisibile. Allora, questo per me è un problema, perché quando noi andiamo a intervistare queste persone, gli diciamo, beh, effettivamente, che ne pensi, come descrivi il tuo lavoro? La prima cosa che ci raccontano è che è un lavoro di cui io non posso parlare. Non posso parlare non perché mi mancano le parole, a volte sì, mi mancano le parole, ma perché sostanzialmente mi hanno fatto firmare, anche se non ho un contratto di lavoro vero che mi garantisce una serie di diritti, mi hanno fatto firmare una clausola di confidenzialità. Oppure, anche soltanto per accedere alla piattaforma nella quale guadagno qualche centesimo, qualche dollaro, qualche centinaia di dollari al mese, si spera, queste persone devono attenersi a delle forme di confidenzialità che spesso sono motivate, se vogliamo, dal segreto industriale. Se io sono Google e nel 2021 sto producendo una cosa che poi diventerà Gemini, che è l'intelligenza artificiale di Google attualmente in uso, non devo farlo sapere per forza ai miei concorrenti, o non devo far sapere, per esempio, agli stessi acquirenti di questa soluzione informatica, se per esempio io Google la vendo a un'azienda, non devo fargli sapere quanto lavoro umano ci ho messo dentro. Quindi queste persone firmano prima di tutto dei contratti che sono estremamente draconiani, costrittivi, leonini, non so quale aggettivo si deve usare ormai in italiano, che spesso li minacciano di cose terribili. A volte si tratta di lavoratori migranti perché sono venuti a lavorare in Europa per fare questo lavoro e quindi rischiano di perdere il permesso di soggiorno. A volte sono migranti nelle regioni del sud del mondo. Ho conosciuto persone che dalla Nigeria sono andate a lavorare in Kenya per addestrare OpenAI, ChatGPT, e queste persone venivano minacciate di non soltanto essere rinviate nel loro paese di origine, ma addirittura di pene carcerarie, cioè 12 anni di carcere se tu racconti in giro quello che fai. Quindi, prima di tutto, abbiamo a che fare con una forma di repressione della parola operaia, della parola dei lavoratori, di questi operai dei dati, e in secondo luogo, evidentemente, è una forma di lavoro che è nuova. Non ci immaginiamo, perché c'è la retorica dell'automatizzazione, che queste persone esistano, che questo lavoro sia necessario. E questo lavoro non soltanto sia necessario, ma, lo dico, come dire, distorcendo un po' la lingua italiana, sarà necessario anche nel futuro, perché più andiamo avanti a produrre questi sistemi, più questi sistemi hanno bisogno di lavoro umano, il che è completamente controintuitivo. Controintuitivo perché ci siamo abituati a pensare da 2 secoli in realtà, che le tecnologie servano a fare a meno del lavoro umano. Usiamo perché l'abbiamo imparato da Marx, l'abbiamo imparato da Ricardo, l'abbiamo imparato da tanti economisti di 2-3 secoli fa, eccetera, eccetera, che questo è labor saving technology, una tecnologia che ci permette di economizzare il lavoro. Ci emancipa dalla necessità di... Di dover, per esempio, non lo so, zappare la terra, produrre automobili, falciare il grano e via di questo passo. Il problema è che non funziona con l'intelligenza artificiale come funzionava con l'automatizzazione industriale meccanica di 1-2 secoli fa. È vero che quando tu devi cercare di automatizzare una mansione fisica, come per esempio, lo so, sollevare un peso o mietere un campo, lì puoi servirti di macchine che svolgano questo lavoro, che è un lavoro di un certo tipo, ma che soprattutto è un lavoro tangibile e fisico e che ha una componente cognitiva molto ridotta, puoi farlo automatizzare con una macchina. Quando devi cercare di automatizzare un sistema cognitivo, quindi un'intelligenza artificiale, lì hai un problema di base, che puoi insegnare alla macchina tutto quello che vuoi, puoi insegnare alla macchina a fare delle equazioni, puoi insegnare alla macchina a risolvere dei problemi logici, a delle cose, perfino a produrre dell'arte, anche se si discute quanto di qualità sia quell'arte, ma non puoi insegnare alla macchina a, uno, aggiornare le sue conoscenze, perché l'aggiornamento è fatto rispetto alla cultura umana, voglio dire come una lingua cambi, beh, questo dipende da chi la parla, e quindi chi dovrà insegnare alla macchina a parlare una lingua aggiornata al 2025, 2026, 2030, eccetera, eccetera, sono persone del 2025, 2026, 2030, continueremo a dovergli insegnare delle cose, continueremo dopo tutto a dovergli insegnare anche delle, diciamo, a risolvere problemi di senso comune, perché questi sistemi informatici sono veramente poco predisposti per la risoluzione di questioni che a volte sono banali. Riconoscere effettivamente, non lo so, un cane da un gatto, quindi fare cose, come dire, cose semplici che un bambino di pochi anni o a volte anche di pochi mesi sa fare, una macchina ha bisogno di farla, ma dopo miliardi di esempi, quindi è un processo che è estremamente lungo, costoso e interminabile. E questo spiega per quale motivo sostanzialmente di questo lavoro non ce ne possiamo sbarazzare, malgrado, ecco, le aspirazioni di tutti. E questo significa anche che dobbiamo comunque prendere in conto che nei prossimi anni, decenni, avremo un costante bisogno di approvvigionamento in termini di questo tipo di lavoro, e già questo di per sé determina una grossa, se vogliamo, obiezione alla teoria secondo la quale tendenzialmente i sistemi industriali attuali, soprattutto quando sono globalizzati, tendono a escludere il lavoro. Quello che succede purtroppo è che il capitale dice che può fare a meno del lavoro, ovvero sia i vari proprietari, dirigenti di queste grandi aziende promettono spesso ai loro investitori o alle istituzioni pubbliche che potranno realizzare lo stesso tipo di mansione ma con meno operai, meno lavoratori, meno salariati. Ma la realtà è che anche se magari i salariati sono meno, persone che hanno un contratto di lavoro e un impiego formale e la protezione sociale e tutta una serie di diritti, magari ce n'è di meno di questi, ma questi vengono sostituiti non da macchine, ma da persone che svolgono questo lavoro, ma sono molto meno protetti, non salariati, perché sono cottimisti, sostanzialmente cottimisti digitali, e quindi stiamo sostituendo non lavoratori con macchine, ma lavoratori con altri lavoratori meno protetti, meno tutelati e finalmente meno visibili. Ecco, tu per esempio utilizzi l'espressione dumb waiters. E cosa significa? Da chi lei... Allora, questa in realtà è quasi una metafora, un aneddoto storico che racconto poi nell'introduzione del libro, lo racconto anche nel libro italiano, a dire la verità, che è una cosa che potete visitare. Se andate negli Stati Uniti, c'è una località in Virginia, si chiama Monticello, ed è la tenuta, la piantagione di Thomas Jefferson, che fu presidente, padre della patria degli Stati Uniti e anche un orribile schiavista. Rendiamoci conto, quando Thomas Jefferson aveva degli schiavi a casa e nella sua tenuta, nella sua piantagione, già era, non era già più di moda per niente, c'erano critiche fortissime, c'era un movimento abolizionista fortissimo, e una delle cose che Thomas Jefferson e tantissimi altri suoi contemporanei facevano era di camuffare il lavoro degli schiavi in lavoro meccanico, quindi creando un sistema che, se uno era invitato a cena a casa sua, c'era un sistema di portavivande automatico dove delle porte si aprivano quasi per magia, apparivano delle pietanze e gli ospiti potevano tranquillamente prendere il loro piatto e metterselo a tavola e non interagivano mai con un lavoratore, schiavo o libero cameriere. Questa è una cosa che ricorda molto quello che è successo durante il Covid, ovvero sia che a un certo punto hanno detto adesso per via del Covid tantissimi ristoranti stanno adottando i camerieri robot. I camerieri robot per tanti motivi non funzionano bene perché soprattutto i ristoranti non sono fatti in maniera tale da poter far circolare dei grossi e ingombranti robot e poi soprattutto perché un'esperienza di ristorazione non si riduce a quello, ma è una maniera di dire che sono secoli che si insiste molto sui dumb waiter. Dumb waiter significa letteralmente cameriere scemo. Dumb significa scemo, significa anche una persona che ha un handicap audio sonoro, quindi insomma che non è capace, che è sordo muto, ma al tempo stesso che è un waiter, dovrebbe essere una persona che fa un lavoro di servizio, un lavoro di ristorazione, ospitalità, eccetera, eccetera. Quindi questa è una maniera di dire che siamo abitati, siamo così attraversati da questo mito di un'automazione completa che poi diventa anche un po' un self-service per i consumatori o per coloro che mangiano, ecco nel caso specifico, da tanti secoli, dall'Ottocento ancora continuiamo a pensare che questa automazione possa funzionare, ma già all'epoca era una bugia. Dietro questi dumb waiter, dietro questi sistemi di montacarichi che facevano apparire magicamente questo cibo a casa di Thomas Jefferson, c'erano in realtà interi battaglioni di cuochi e camerieri che non soltanto producevano questo cibo, ma che poi lo mettevano su questi montacarichi e poi a mano, tirando degli argani e delle corde, facevano salire questo cibo che poi per magia appariva nella camera, nella sala da pranzo dei bianchi, ecco. Quindi abbiamo ovviamente un problema di invisibilizzazione, giustamente, del lavoro, in questo caso il lavoro non libero, ma anche abbiamo una grossa, una metafora, se vogliamo, del lavoro che resta ancorato in logiche colonialiste, perché logiche colonialiste di sfruttamento, di schiavizzazione, chiaramente, anche se poi personalmente insisto molto sul fatto che il lavoro degli operai dei dati e il lavoro di quelli che producono l'intelligenza artificiale nel sud del mondo non è il lavoro di schiavi. La schiavitù esiste purtroppo ancora oggi ed è un fenomeno particolarmente doloroso e difficile da sconfiggere definitivamente, ma queste persone sono delle persone che scelgono di fare questo lavoro, scelgono perché sono costrette, scelgono perché non hanno altre prospettive, altri sbocchi lavorativi, ma si tratta di qualcosa che deve essere interpretato come un fenomeno che si scrive nell'alveo o nel contesto più generale del lavoro salariato e che se abbiamo un problema con il lavoro degli operai dei dati, dei sottoproletari dei dati, abbiamo un problema con il lavoro salariato anche e con il lavoro che aspira ad essere salariato, dovrebbe essere salariato, ma soprattutto dovrebbe essere protetto, dovrebbe essere tutelato e che non è tutelato. Trovo molto, molto efficace questa similitudine dei dumb waiters che ci hai descritto con l'attuale situazione del mondo del lavoro nascosto, invisibilizzato. Bene, facciamo un'altra pausa musicale e ascoltiamo Fortunato Durutti Marinetti, Full of Fire. I was pinned to wax, but you moved as fast as hummingbird's wings. You were silver cloud, you were a blue ribbon. You were the first red bones of the season. I was a sealed attic of the house with a tiny window facing north. And suddenly the facts of the past have no bearing anymore. Future was untouched, and therefore could never be known. So I made up my mind, and I decided to ignore all the signs and to just live by instinct. Distortion changes everything, so we distorted ourselves. And you became 18 elegant horses. And I became 18 saddles and 18 martingales. You became the head of the match. And I became the blue part of the flame. You were the middle distance of the pass. And I was the line, the horizon. And I had all of the words, but I couldn't find their meaning. All that I had, all that I had was this memory of a feeling. He said, no, it's in the ground. He said, no, it's in the air. He said, darling, it's clearer. It's clearer. It's clearer than any words could say. And I said it will be sad when we reach the end. When we reach the end and we find that we have absolutely nothing left. He said, no, darling, don't be scared. Everything should burn, everything should be bare. Nothing should be spared, nothing should be saved. No, nothing. Nothing should remain. Di nuovo in voce per questa terza parte di Entropia Massima. Stiamo parlando di intelligenza artificiale e il lavoro con Antonio Casilli. Siamo arrivati all'ultima parte, quella in cui in genere nelle nostre puntate proviamo anche a tracciare delle prospettive politiche, delle alternative. Da quello che ci hai raccontato appare evidente che ci sia una necessità, diciamo così, in maniera con un eufemismo, di riorganizzare in modo più giusto il lavoro. Quali spazi vedi per una prospettiva di questo tipo? Allora, gli spazi ne vedo e anzi spero anche di contribuire a crearne di più, perché una parte della nostra attività di ricercatori a Deep Lab è anche di cercare di far dialogare delle realtà, a volte sindacali, a volte di altro tipo, delle ONG o di altre associazioni o istituzioni, perché si sviluppi da una parte una presa di coscienza, se vogliamo, di classe da parte di questi lavoratori, e dall'altra effettivamente si cominci a pensare a delle soluzioni. Allora ti do qualche esempio: da una parte di una quantità enorme di iniziative sindacali dal basso, quindi di, diciamo, organizzazioni di base che emergono un po' in tutto il mondo e che a volte hanno delle manifestazioni concrete in strada, volendo, che fanno, organizzano manifestazioni come in Kenya. In Kenya ci sono stati almeno tre diversi sindacati e continuano ad esserci tre diversi sindacati: c'è l'African Moderator Union, il Tech Worker Alliance e l'altra si chiama la Data Labelers Association. Queste magari a degli ascoltatori italiani, queste sono delle cose che non dicono niente, ma sono tre sindacati di base di persone che addestrano OpenAI, che lavorano per Meta, che lavorano per Microsoft, Amazon e tutta una serie di grandi giganti americani, perché in quel paese, siccome è un paese la cui storia coloniale fa in modo che ci sia un grosso numero di persone che parlano inglese, lavorano principalmente per paesi anglofoni. Non è il caso altrove: in America del Sud si lavora moltissimo per la Spagna, per il Portogallo, a volte per la Russia, ma questa è un'altra storia, e via di questo passo. Comunque, si creano anche delle forme di nuovi sindacati. Noi lavoriamo con questi sindacati da anni e anzi quest'anno 2025, tra il 10 e il 12 settembre a Bologna, organizziamo una conferenza internazionale, ogni anno ne facciamo una, di un network che si chiama International Network on Digital Labor, o per farla corta INDL, INDL. Quindi all'Università di Bologna e al Tecnopolo di Bologna noi inviteremo dei lavoratori dei dati del Kenya, di uno di questi sindacati, per presentare quello che loro fanno e raccontare quello che loro fanno e confrontarsi con sindacati tradizionali italiani, la CGIL in particolare, vediamo che cosa succede, oppure Uniglobal, sindacato internazionale, perché le iniziative non esistono soltanto a livello di base. Anche i sindacati tradizionali in realtà da tanti anni lavorano su questo in maniera, diciamo così, un po' disparata, e da ogni paese ha una prospettiva diversa. Alcuni paesi sono più avanzati, la Germania ci lavora dal 2016 su queste tematiche, in Italia siamo un po' più in ritardo, anche perché, lo dico criticando un po' anche la mia casa d'origine, se vogliamo, politicamente parlando, c'è un discorso che è esageratamente spostato e focalizzato per esempio sul lavoro autonomo precario, e certamente gli operai dei dati che io intervisto a migliaia, ci sono veramente, abbiamo intervistato migliaia di persone in giro per il mondo, sono precari ma non sono autonomi per niente, e quindi abbiamo un problema di come viene interpretata questa cosa. Allora, i sindacati ci lavorano su queste cose, in certi paesi più che in altri, ma spesso queste iniziative di difesa e di tutela del lavoro precario dei produttori di dati per l'intelligenza artificiale, non si manifestano in strada, non si manifestano nei consigli sindacali aziendali o delle piattaforme, ma si manifestano nei tribunali, tribunali del lavoro o tribunali civili, perché spesso le forme sindacali, la tutela dei lavoratori prende la forma di ricorsi collettivi, quelli che si chiamano in americano class action, quindi grandi azioni giudiziarie che cercano di far riconoscere i diritti di questi lavoratori o cercano di farli riqualificare come salariati, il che è tutta un'altra iniziativa diversa. In certi casi funziona, in certi casi non funziona per niente. In Francia, per esempio, nel 2000 21 c'era stato un tentativo e una prima decisione di giustizia, una prima sentenza di un tribunale di grande istanza francese, che aveva stabilito che una di queste aziende dovesse assumere i 700.000 dichiarati utilizzatori della sua app per produrre dati, ma poi la Corte d'Appello di Parigi ha deciso di ribaltare completamente la sentenza ed è saltata. In altri paesi, per esempio in Brasile, ha funzionato e quindi c'è una piattaforma, ancora una volta, se vi dico il nome, si chiama Xia, non ha mai sentito nessuno qui, ma è una piattaforma che produceva dati per soluzioni di automatizzazione di questo tipo, che alla fine è stata condannata dal Tribunale del Lavoro dello Stato di Sao Paulo, in Brasile, e quindi ha dovuto assumere queste persone e in più pagargli gli arretrati. Quindi, ecco, ci sono di questi casi, di queste esperienze estremamente interessanti. Non sono le uniche, perché a volte le aziende stesse iniziano effettivamente a farsi qualche domanda, cominciano a stabilire alcuni standard di responsabilità. Io personalmente non mi fido per niente di aziende che cercano di autoregolarsi. Spesso l'autoregolazione non è che un espediente per riuscire a sfuggire della vera regolazione più forte e più stringente, ma è vero che, per esempio, non lo so, Google da anni cerca di lanciare un'iniziativa, l'ha lanciata anzi, un'iniziativa che si chiama Partnership for AI, quindi Partnership for AI, nella quale cercano di imporre a livello di tutto il settore industriale degli standard di responsabilità etica anche nei confronti dei lavoratori. E poi ci sono anche dei casi molto più interessanti che iniziano effettivamente a diventare, ecco, delle proposte più a lungo termine e più ambiziose politicamente, come per esempio la creazione di Cooperative AI, che è un'emanazione delle cooperative di piattaforma. Quindi, insomma, come negli anni passati c'erano state, non lo so, cooperative di ciclofattorini, di rider, o cooperative di automobili, di tassisti alla Uber, che creavano le loro app di cui gli operai stessi erano, i lavoratori stessi erano proprietari. Alla stessa maniera iniziano ad esserci sempre più proposte di creare delle intelligenze artificiali cooperative, la cui proprietà dei dati e degli algoritmi è detenuta dai lavoratori stessi. E quest'anno stesso io parteciperò a una conferenza a Istanbul, in Turchia, nella quale parleremo di queste cose, di una grossa conferenza di cooperativismo di piattaforma. Quindi questo inizia effettivamente, ecco, a diventare una proposta più utopistica, se vogliamo. Allora, un'altra domanda in chiusura te la devo fare. Chiaramente il reddito universale è una delle proposte che spesso sentiamo quando parliamo di questi temi, e viene presentato come una soluzione per fornire, diciamo, mezzi di sussistenza a chi non lavora più. Oggi però noi abbiamo capito, grazie a te, che in realtà il lavoro continua ad esserci, anzi viene invisibilizzato e è pagato molto meno di prima. Quindi, in qualche modo, anche se si lavora e si lavora peggio di prima e si lavora pagati meno di prima, c'è comunque un enorme surplus che queste grandi aziende riescono a fare proprio in virtù di questo, che andrebbe in qualche modo redistribuito, visto e considerato che quali sono le paghe di cui ci hai parlato. Quindi effettivamente il reddito universale può anche essere visto come qualcosa che accompagni quello misero dei dumb waiters, diciamo così. Ecco, cosa ci puoi dire in merito? Allora, posso dire che effettivamente questa è una questione che effettivamente si parlava di soluzioni utopistiche nell'ultima parte del libro. Io cerco di esplorare delle prospettive politiche più a lungo termine, e lo faccio rivenendo a una proposta politica e economica e sociale sulla quale avevo già lavorato tanti anni fa, perché avevo pubblicato un primo articolo con un altro collega economista nel lontano 1999, quindi stiamo parlando del secolo scorso, sull'uso di moneta elettronica per pagare un reddito di cittadinanza digitale. La base, se vogliamo, l'hai già, come dire, accennato, ecco, è che sostanzialmente abbiamo visto c'è una continuità tra le persone che sono pagate quasi zero per produrre dati nel sud del mondo e le persone che sono pagate zero in tutto il mondo per produrre dati in quanto consumatori, utilizzatori. Noi tutti produciamo dati. Utilizzare una piattaforma, anche se una app, anche se noi siamo i consumatori di questa app, in realtà ci costringe a produrre dati, e questi dati vengono utilizzati per addestrare le intelligenze artificiali. Quindi, da una parte per compensare i salari da fame delle persone del sud del mondo, e da una parte per compensare in maniera corretta i dati che sono estratti a forza dai consumatori, dagli utilizzatori, dagli utenti di queste app dappertutto nel mondo, c'è bisogno di immaginare una forma di retribuzione che effettivamente sia più larga di una forma salariale. Ecco, allora, la parola chiave, anche questa l'hai accennata, è redistribuzione, e io insisto molto sul fatto che parliamo di tassazione delle piattaforme a tappeto, nel senso che non bisogna smetterla con questi sconti che si fanno a queste piattaforme nel nome dell'innovazione, nel nome dell'incitazione o degli incentivi all'innovazione. L'innovazione è comunque sia estremamente dipendente da investimenti pubblici, e quindi non possiamo continuare a accedere a questo ricatto stupido. Da una parte, questo qui è la base, è c'è la possibilità attualmente di mettere in atto delle forme di tassazione seria sulla base dei dati e del valore prodotto dai consumatori stessi e dai lavoratori in tutto il mondo. E la seconda cosa è che questa tassazione deve dare la possibilità di mettere in atto una redistribuzione altrettanto ambiziosa, che passerebbe per il reddito digitale, reddito digitale universale. Quindi non è più il RUC di una volta, RUC, il reddito universale di cittadinanza, ma il RDU. Allora, il problema è che anche sul reddito universale c'è attualmente, e anzi degli anni è aumentata, una confusione crescente. Piccolo riassunto per quelli che non hanno seguito la storia e l'archeologia anche di questo concetto. È un concetto che emerge dopo tutto verso la seconda metà del secolo scorso, quando a un certo punto alcune persone iniziano a pensare a una prospettiva in cui il lavoro salariato è progressivamente lasciato, come dire, scompare progressivamente, e quindi dobbiamo inventarci una forma di reddito in una società post-lavorista. Okay. Questa è la prospettiva che, se vogliamo, è anche una prospettiva particolarmente libertaria e libertariana, portata da alcuni teorici del passato, come, non lo so, von Parijs, che è questo olandese, che era una persona molto, molto, come dire, uno dei padri della disciplina, mettiamo così. E il problema è che questa disciplina non tiene più. Questa disciplina soprattutto è stata distorta, è stata manipolata, è stata recuperata e strumentalizzata da una serie di attori industriali veramente poco raccomandabili. Quando Elon Musk si mette pure lui a parlare di reddito di cittadinanza, o Jeff Bezos di Amazon, ne parlano in termini di allora io già voglio licenziare tutti, dice il dirigente d'azienda, voglio licenziare tutti, ma non vi preoccupate, perché anche se sarete sostituiti da robot, io vi pagherò, o farò in modo che lo Stato vi paghi un reddito di cittadinanza a mo' di consolazione. Allora, questa è una grossissima stupidaggine, perché tanto per cominciare stiamo lavorando da anni, io e, ripeto, tutti i miei colleghi lavorano su come viene prodotta l'intelligenza artificiale, per mostrare che sti robot non prenderanno il lavoro di nessuno, nel senso che se qualcuno perde il lavoro è perché qualcuno vi ha licenziato e sostituito con un proletario sottopagato qualche parte nel mondo. L'altra cosa è che sostanzialmente non stiamo parlando di un reddito che sia una consolazione. Questo deve essere un reddito primario. Questo deve essere un reddito primario perché sostanzialmente c'è un argomento da fare, c'è un argomento da tenere, secondo il quale tutti i lavori si stanno digitalizzando, si stanno dataificando, stanno trasformando in digital labor per addestrare intelligenze artificiali. E questo l'abbiamo visto con il Covid, per esempio, in Italia in particolare, con l'aumento dello smart working, quello che viene chiamato smart working, lavoro a distanza, telelavoro, ma soprattutto è un lavoro piattaformizzato. Dove e come è stato realizzato questo smart working? Beh, attraverso le stesse piattaforme che producono delle soluzioni di intelligenza artificiale. Teams di Microsoft, Microsoft è uno dei principali produttori di intelligenza artificiale, Amazon, Facebook, Google, YouTube, Gmail, quante persone hanno utilizzato, Google Meet, quante persone hanno utilizzato, Zoom, anche questo Zoom stiamo vedendo che grosso investimento sta facendo in intelligenza artificiale. Attualmente su Zoom l'ecosistema Zoom è completamente dominato da intelligenze artificiali che riassumano, registrano, trasformano, aggiungono filtri, ce n'è tantissimo. E questo è fatto con i nostri dati. Quindi questo è un reddito universale che serve a compensare questa parte di valore sociale che è prodotto da tutti gli utilizzatori, ma anche queste forse centinaia di milioni di persone che in giro per il mondo producono questi dati. E quindi è una questione di giustizia sociale, è una questione di redistribuzione, è una questione anche di riconoscimento a livello nazionale e internazionale di questo lavoro. Bene, ringraziamo Antonio Casilli per questo intervento. Lo abbiamo incontrato in genere. Antonio, tu partecipi alle nostre puntate collegandoti da remoto perché vivi a Parigi, ma in questo caso invece l'abbiamo incontrato a Roma, al centro della riforma dello Stato, dove ci è stata data una stanza per la registrazione. Cosa ci fai da queste parti, Antonio? No, sono venuto a presentare il mio libro in due diversi luoghi di Roma, e poi comunque voglio dire, con il centro della riforma dello Stato sono in contatto dal lontano 2015, perché pensa che quando ancora il mio libro, che attualmente ha questo titolo Waiting for Robots, aspettando i robot, eccetera eccetera, era ancora soltanto un'idea, loro già avevano lanciato una discussione su queste tematiche, quindi in un certo senso mi hanno aiutato poi a concretizzare delle idee e a metterle su carta, e quindi, come dire, gli devo un debito di riconoscenza, ecco. Noi ne abbiamo approfittato, insomma, per incontrarci, in modo che, insomma, l'intervista fosse, almeno siamo vicini, ecco, fisicamente vicini. E seppure non siamo riusciti a farla proprio in trasmissione, per questo l'abbiamo registrata qualche giorno prima. Bene, allora Entropia Massima finisce qui. Vogliamo salutare tutti e tutte quelle che ci hanno ascoltato, in particolare chi lo ha fatto dal carcere. Vi lasciamo agli altri programmi del lunedì sera, e l'appuntamento con Entropia Massima è per il prossimo lunedì. Sigla.